non ti do un'ora che aspetto. E già due sere che mi sento costretto, che ascolto tutte quelle cose che dici, ma non dirmi che io e te siamo amici. Ragazzi, togliti i vestiti perché io sono quello della regola del tre. Baby, non dirmi che tua madre ti aspetta, io questa sera non voglio da fretta. Dille che prenda delle rocce e si rilassi, noi questa sera usciamo a fare i pazzi. Ragazzi, togliti i vestiti perché io sono quello della regola del tre. Aperitivo mercoledì, nessun messaggio di giovedì, c'è un bacio di venerdì, ma nel weekend in ginocchio fai tutto a te. Questa è la regola del tre, io sono quello della regola del tre. Non faccio storie per queste, lo sai, ma la terza non fermarti mai. Baby, sono qui da un'ora che aspetto, e già più sere che mi sento costretto, che ascolto tutte quelle cose che dici, ma non dirmi che io ti siamo amici. Togliti i vestiti perché io sono quello della regola del tre. Aperitivo mercoledì, nessun messaggio di giovedì, c'è più bacio di venerdì, ma nel weekend in ginocchio fai tutto a te. Questa è la regola del tre, io sono quello della regola del tre. Non faccio storie perché sarei